fine, la rottura di balle. Non lamentiamoci, dai, che sarebbe anche ora. Sì, per me può fare i suoi imbiazzi. È che già lo sai quando sei in campagna. Uscire fuori, giardino, insomma, pur la nuda perché ha serrato Trento. Sì, però noi abbiamo un apparato. Che è stato utilizzato senza andare a vedere la televisione sui suoi titoli volanti. Oh, venuta. No, vabbè, io ho la veranda, abbastanza grande, coperta. Posso uscire, però non puoi uscire nel giardino perché, insomma, sporchi le scarpe, porti tutto bagnato, tutto rotto. Telefono, aspetta. Ci sto fuori per le clari, per subito. Sono fatto. Nessuno su 10. Beh, Chihuahua, non è entrato nessuno. Chihuahua. Sono qua. Cosa c'ha? Cosa stai facendo? Niente, casseggiando. Provo con il computer. Cazzo, il telefono mi rompe le balle, sì. Perché? Buonasera. Oh, ciao Mario, buonasera, mi sentite? Allora, chi sono? Sì, sì. No, allora voi come vi riconoscete? Mi riconoscete? Sei a casa? No, è stato la provocazione tu io. No, bella ramiera, e te l'ho anche data. Che strano. Io la usavo la turbina. Usavo con la tua due, addirittura sopra la capota del camper. 1 e 3, il vetrolesio, ne stiamo parlando, il camper vetrolesio, 1 e 3, che strano, ma, veramente strano. Se voi io te la presto la turbo 2001 con il tuo filo, penso anche salva il PL, e lo metti in quella maniera lì, appoggiata in terra. E vedi un po' come esci. Infatti, non è quel problema. Va bene. Mario, sei rientrato? Lo senti Mario, la tua Torres? Niente, non è rientrato al telefono. Sta piovendo? Mario, se dovessi vendere quell'antenna, fammelo sapere, quella che uso in macchina. Se dovessi vendere quell'antenna io in macchina, fammelo sapere. Sì, sì, no, ma proprio mi piace come antenna, mi piace proprio la forma bella, mi piace come antenna. E non l'ho trovata su internet uguale. Comunque, se ti balena l'idea di prenderla, fammelo sapere. Ehi, dai, spara. Vabbè, dimmi che marca è l'antenna. Aspetta, già ci trovo nel prossimo, intanto non è una cosa urgente. Non è una cosa urgentissima. Adesso ne ho piazzata una lunga. Un camper, forse è troppo lunga, è 1,70 metri di lunghezza, è troppo dappertutto. Quella che hai tu è perfetta. Chihuahua. Lo senti a Mario? Molto basso, molto basso, c'è un bel QRM. Mario, mi senti? Sì, ti sento. Se non aumenta il QRM, sì, ma io QRM ne ho poco, però tu sei 5. Quindi non va male, va benissimo. Così vabbè, Claudio è una zona alta di Sassari, è leggermente fuori Sassari. No, già ti sento, perché c'è gente in FM, hai capito, in propagazione, quindi li accavallate, non si capisce niente, però se non parlano già ti sento, non c'è problema. Ma dove sei tu? A portatore di macchina? No, quella dei martiri è vicino, dove c'è l'ancora. Quella è lontana, non ce n'è martiri. Te lo dico perché sono portatore anch'io, quindi vai vicino, lì portano i martiri, e poi alla processione, insomma la festa grande, l'operazione la fanno lì. Ma è lontano, non c'è niente, c'è una chiesetta che ogni tanto aprono a fare qualche cosa, ma è sempre chiusa. È sempre chiusa, va bene, avanti Ege. Senti Mario, l'ho trovata con la guarda tua, però non ha l'aggancio che serve a me, non ha l'aggancio che serve a me, non interessa il coso a farfalla. Questa qua non sono a farfalla, l'aggancio alla base cranizzata. Sì, sì, sto cercando. Ma tu l'hai vista aperta? Io l'ho vista aperta, la conosco molto bene. C'è l'altare, come non c'è? C'è un altare piccolino, ma c'è. E tu per questa stava la chiesa, c'è tutto. Ma io sono già pronto all'uso, l'altarino c'è. Sì, che c'è l'altare c'è, l'ho vista aperta, io ho visto anche la messa un giorno, hanno fatto, l'aveva fatta Don Gavino. Cosa? C'è un sacco di casino, madonna, ti sento basso in mezzo al QRM, Mario. No, l'apro, non so in che periodo estivo, l'apro e hanno fatto anche la messa un anno, l'ho vista. Non so in riferimento a che cosa, boh, qualche manifestazione. Forse i caduti a mare, non lo so, comunque qualcosa hanno fatto. C'è l'altare, anche bellino, è piccolina la chiesa, molto piccola, però è attrezzata, c'è l'altare, c'è tutto, capito? È sconsacrata, però c'è tutto la chiesa, c'è tutto, è piccola, però è bella. Sì, ma le fanno dei riti, non fanno messe. Io so che è sconsacrata la chiesa. È bella. Vabbè, sta parlando Mario con Eugenio. No, cosa sconsacrata? C'è l'altare, c'è tutto. Ho fatto una messa bellissima a Dolfino prima di morire lì. E poi c'è stato anche qualche anno fa un battesimo. Assolutamente, non è sconsacrata, no. L'apro ogni anno, l'apro. Io d'estate l'ho vista aperta al pubblico. Vederla. Ah ok, no, io pensavo fosse sconsacrata, vabbè, peggio per lui, peggio per me. Però senti a Mario lui. Sì, ne ho trovato una come costava della migra, ma costava 96 euro, non mi sembra il caso. E comunque aspetta un attimo che Luca, ho sentito a Luca sottofondo, Luca! È entrato Luca, c'è Luca, Luca è, e dove entra a voi pari. Va bene, oggi dai, sono qua, sto facendo cosa, ci sentiamo tra un attimo, intanto ho difficoltà a sentire Mario, ok? Ok, siamo qua. Perché non ti metti a modulare a Balai vicino, che la zona è molto meglio di Balai lontano? Balai lontano è coperto per Sassari e Mario. Balai vicino, dove c'è l'ancora lì, nella piazzola, lì arrivi benissimo a Sassari, molto meglio di quella zona lì. Ma non sono sicuro al 100%, noi non ci mettevamo a modulare a Balai lontano con le macchine. Noi modulavamo la Balai vicino. Capito, essendo più basso e più aperto sei molto più, ma è molto meglio per Sassari, lì è coperto per Sassari, no, Balai vicino è molto meglio per modulare in macchina, vai tranquillo, abbiamo già contattato da vecchie date, Balai lontano non ci siamo mai andati noi a parlare, è molto meglio Balai vicino, è più aperto, vai tranquillo, mettiti lì poi richiamo. Falli compagnia tu, Jeff, io mi sposto un attimo. Sono qua, vai tranquillo Mario. Sono qua. Tanto oramai l'ho visto il segnale che hai, da Balai lontano, vediamo un po' quello da Balai vicino. Vai tranquillo, mettiti in piazza dell'ancora. Dove è questo bar fuori? Ma l'hotel Balai stai dicendo? Sì, al Tropical. Ma al Tropical il coso, l'ancora. Ah, sulla gelateria, non è il bar. Ho capito. Lo provo, vai, siamo qua. Beh, è arrivato sì a Balai. No, ancora non sta arrivando. Sì, devi girare la macchina con la prua verso Piazza Sardo, dove si arriva a Sassari. Ma veramente tu hai l'antenna a base calamitata al centro della macchina, quindi... E noi da lì, chi parlava da lì, a Sassari arrivava una schioppettata. Perciò Balai lontano è un po' più coperto, anche se leggermente più alto, ma niente di che, capito? Però lì è molto aperto. Ti ricordo una cosa, che lì ha l'antenna con le centimetri di antenna, la base calamizzata e quelle con la carica, quella che sto cercando io per sempre, capito? Ma quello tipo frusta nera? No, è cromata, però ha la carica, al centro dello stilo, ha la carica, capito? No, ho capito, con la carica grigia c'è. Come la carica grigia? Sì, c'è un affare di plastica grigio al centro, lo stilo da 80 centimetri. Dove sei adesso? Beh, non è nulla, non mi sbaglio. 40 anni di radio, esperienza fatta. Sei fermo? Allora, tu metti la macchina, hai visto dove sono i gradini della chiesa? Parcheggia lì, un po' più in dentro, no? Nella piazzola, con la prua della macchina verso Castelsardo. La prua della macchina davanti al tetto della chiesa, lo vedi il tetto della chiesa? Non so se si vede ancora. La prua della macchina davanti al tetto della chiesa. Sì, ma tu ti devi mettere parcheggiato non davanti all'ancora in mezzo, ti devi mettere parcheggiato a spina di pesce e nelle arrivare al marciapiede proprio della passeggiata, capito? Davanti alla chiesa e vedi come arrivi a Sasse. Già stai arrivando molto meglio. Sta arrivando molto meglio, Sì, ma ti stai muovendo, c'è ancora il movimento. Vabbè, rimani fermo così, Santiago 7 arrivi, prima arrivavi 5, adesso sei 7, però ci sono dei punti lì che puoi arrivare anche Santiago 9. Va bene sì, e poi vabbè, a me proprio piace la forma dell'antenna, capito? Mi piace proprio la forma di quell'antenna lì. Comunque, vedi, ad esempio a me arrivi più basso adesso, però ti ascolto sempre bene, alla grande, non c'è problema. I punti, magari quello è un punto leggermente negativo per me, però ti ascolto sempre bene, attenzione. Hola. C'è qualcuno qua? Ciao Matteo, stava parlando Mario, l'hai capito? Sì, Mario va bene, ma lei va benissimo, non c'è problema, ma è lontano, è un po' così, dipende dalle zone, però vai vicino, a me mi arriva molto molto meglio perché praticamente rimane un po' più basso, più aperto. È entrato anche Natalino, vai Eugenio. Ciao Natali, buonasera. Se si dovesse mettere nei parcheggi della Fiamma 2000, arriva a bomba a Sassari. Ma io non ho problema, lo sento bene, però lì da Balai, dove è messo adesso, ci sono dei punti strategici che arrivi molto bene a Sassari, capito? Perché Balai si vede, no? Si vede da Sassari, perlomeno dove sono io, da dove ero io lo vedevo, quindi non c'è un problema. E quale casa ti sta coprendo se non ce n'è? L'unica casa è Villa Noce, dove c'è il ristorante. Che casa? Dove ti sei messo? Tu ti devi mettere dove c'è la chiesetta, devi parcheggiarti e vedere il tetto della chiesetta. Oh, fermo così, non ti muovere. Ehi, fermo però, Santiago 9 stai arrivando, stai fermo. Magari ti sposti e non ti sento più. E vedi che sei sceso di nuovo a 7, te l'ho detto. Lì in quella piazzola noi abbiamo fatto di tutto, c'erano dei punti che ti spostavi a 2 metri e arrivavi una cannonata. Perfetto, sei tornato a 9. Ruggero, senti meglio? Ah, è proprio strano, no, per me è calato il segnale da me. Però va bene se non lo ascolto sempre bene, attenzione. Però ha calato il segnale. Hai visto? Lì ha calato da te che ha portato Torres. E da me è aumentato, le abbiamo già fatte te prove. Vieni, prova a spegnere la macchina, vediamo. Assolutamente no. 6-8 con picchi positivi a 9. Vediamo se ti ascolta Natalino. Natalino, senti a Mario da produttore Giambalai. No, mi arrivano troppo bassi qua. Sono negativo io. Visto? Invece lui ti sente bene, Santiago 3, Natalino. Santiago 3 ti accoppia, Santiago 3. Oggi tu lo senti a Natalino, sì? Passo, un attimino, riprendo subito. Non ti sente. Adesso Mario, hai visto quel punto lì? Tu quando devi modulare devi andare lì, dove sei adesso? Senza andartene lontano, a Balai lontano, non ci fai niente. Ti metti lì, sei anche in compagnia, poi ci sono un sacco di altre macchine. E quello è il tuo punto di modulazione. Arrivi benissimo qua a casa mia, quasi 9. E di Santiago 5, caspita. Adesso sei 8 abbondante, quasi 9, perciò, ma lo so perché io Non abitavo molto distante da dove sei tu, capito? Mia mamma abita ancora a Porto Torres. E quindi quando andavamo a modulare con i baracchini, allora a Porto Torres ce n'erano un sacco di gente col baracchino, la domenica mattina ci appostavamo tutti lì per fare collegamenti e ognuno ci prendeva la sua postazione, hai capito? E anche quando parlavamo con Sassari, il punto strategico era Balai vicino, non Balai lontano. Balai lontano non ci andavamo noi. Sono di nuovo qua, ha iniziato a piovere. Niente, sta piovendo, aspetta che c'è roba fuori io. Le prendi Mario? Sta piovendo una bella, una grande. Io, ma come sto usando adesso? Ma quello che uso di sotto è questo qua, o il Kenwood. Ciao, il QRM Santiago 9, ecco. È molto intelligente. Natalia, aspetta un attimo. Mi stavi dicendo Mario? Sì. Poi ho anche un coso che uso pochissimo, anzi che uso quasi mai, diciamo, il Galaxy Saturn, ecco. Ma secondo me lo trovi 300, 350 euro. Natalie, lo so, come accendo l'altro apparato innesca. E vabbè, adesso non c'è più. Come mai? Facciamo il microfono troppo vicino all'apparato. Che strano. Che cosa è successo? Sì, lo sento anch'io. Cosa può essere? Che strano. Non lo so. Adesso è sparito. No, guarda, tocco il piede del microfono, non innesca. Lo lascio. Lo sto innescando. Ma quello che ho detto lì non è omologato. Ma chi non ne capiscono più niente. No, non te ne chiedo nemmeno. È sparita anche la concessione, non si paga più. Breco 10. Avanti, il Breco 10. Buonasera Natalino, qua il profeta delle coordinate della stazione. Ciao, Lubrofè. Catanove di QRM, ciao. Anche qua da svariate settimane c'è un QRM elettrico da far paura. Non so se qualcuno qua vicino o qualche macchinario oppure dal nuovo ponte telefonico che hanno messo lì sul palazzone Cavalcavia, può darci. Quelli bassi non li sento. Porto Torres per esempio prima lo sentivo Eugenio basso, adesso non riesco a sentirlo perché mi arriva Santiago 9 il QRM. Giovanotti. Buonasera, ciao Franco. Sono entrato così a strappo, ho messo a posto il giocattolino di un mio amico, mi ha detto di provarlo, un Uniden Pro 510 XL, una sottiletta, dai. E gli ho cambiato l'altoparlantino perché il suo non suonava molto bene. E ditemi come va, dai. Intanto ciao Natalino, ciao Gianni. Non è la tua radio, questa non spara proprio, non spara nulla. Non ti stavo neanche riconoscendo con questa voce un po' anonima, però va bene. Avanti Natalino. Ciao Fra, buonasera. E la voce anonima, microfono normale deve essere. Kappa, sì, è il microfono, praticamente sto usando il microfono originale del mio Super Jobix, visto che me l'ha dato senza microfono, e quindi sto usando il microfono originale. La radio è praticamente, ve l'ho detto, è una scatoletta, una Simmental, c'ha 3 watt, 4 watt scarsi, dai. Volevo sapere, a parte la radio, insomma, se è ascoltabile il tutto, dai. Sì, Santiago, arrivi benissimo, non te lo do neanche. Il Santiago, la radio 5, un po' nasina rimane però. Natalino, cambia. Mia Eugenio. Ciao Eugenio, Massino ti ascolto, c'ho 9 di QRM. E anche qua non arriva bene, il portatore qua è un po' negativo. Ma strano che c'è tutto questo QRM, l'avrei ascoltato bene a Eugenio, prima l'ascoltavo bassino ma l'ascoltavo bene, adesso ho sentito la vocina poco a poco, infatti gliel'ho detto che c'ho 9 di QRM qua, c'ho troppo QRM, tu molto ne hai QRM qua. Sta parlando Eugenio. Ammaestra, c'ho Santiago 7, non riesco a sentire nessuno. Ha detto che c'è Santiago 7, anche lui di QRM non sente nessuno più. E allora è atmosferico, eh. Come si chiama? Mario, quello sempre da Porto Torres, là. Aspetta fra un attimo. Genio, mi senti? Cambio. Oh wow, chi è? Gianni, tu sei? Ehi, sto provando quel barattolo che stavo mettendo a posto, quell'Uniden, con la scatoletta intorno. Vabbè, gli altri hanno difficoltà a sentirti, dai. Natalino c'ha il QRM altissimo e Franco lo stesso. Io ti tiro fuori pio pio, dai. Comunque, buonasera, dai. Oh wow, ciao, sto chiudendo perché mi ha salito giù il QRM a manetta, non sento più nessuno. Capito, ci sentiamo più tardi magari. Che non riesco a sentirti, non riesco a sentire neanche l'amico Mario, quella per dottore, che è attaccata a me. Ciao a tutti. Cappa Rogero, eia, ciao Jake, ma ci senti? Sì, ci sentiamo eventualmente più tardi, dai, ti saluto da parte di Franco e Natalino. Avanti Fra. No, io lo sento, sento anche Mario, vediamo un po', Mario. Sì, ti ascolto Mario, tu mi ricevi bene? Sì, i saluti li ha dati da parte nostra, li ha dati Gianni Lubrofeta di Sassari. Ti ascolto Bassino, ma probabile che abbia problemi con l'infiltrazione di acqua nella sua antenna, magari gli è salito il QRM per quello magari, boom. Cosa ne pensi Natali? Uno, cosa vuoi ti dica, c'ho 9 di QRM qua. Nessun problema, è da stasera che non sta piovendo, che sta piano piano salendo il QRM. Adesso magari da pioggia. Dai, sono qua, vai. Si sentono belle scariche di... come si chiama? Atmosferiche, mi? Inteso, temporale. Avanti Gianni. Ehi, sì, anche qua è altro, probabilmente roba nell'aria, dai, quindi non... ci sta, dai, è roba naturale. Franco, vabbè, siamo molto vicini, dimmi com'è segnale, com'è? Ma il segnale è 9 più 30, staccato proprio. La radio è 5, non è amplificata, però la radio è chiarissima. Si sente che è un omologato, però niente da dire, dai. Gappa, io a Mario lo sento proprio pio pio con questa radio. Comunque, vabbè, se mi copia lo saluto, buonasera. Ti ascolta benissimo. Io invece no. Adesso vabbè, sono con questa radiolina. Adesso smonto tutto e provo a riattaccare la mia, dai, vediamo un po' cosa succede. Oh, era giusto per testare questa radiolina, così gliela restituisco. Provo a mettere mano nell'altra. L'altra praticamente ha un problema al potenziometro. Come accendi l'interruttore dell'accensione, praticamente parte il volume a manetta. E quindi devo provare a mettere a posto anche quella, dai. Invece io uno che praticamente non fa più il click di spegnimento, praticamente non si spegne più, il volume funziona, una volta è diventato un po' duro, come l'ho portato, click, ha fatto un rumorino e non ha più funzionato, quindi vorrebbe sostituire sicuramente il potenziale, ma ripeto, spengo l'alimentazione, va bene così. Cioè lo contrario di Ghiccio praticamente. Ui. Avanti Natali. Dimmi già. No, niente, ti ho rilanciato. Perché stavo facendo questo io con la 50. Andà bene. Vieni avanti Fra, che io nel frattempo ho smonto tutto. Stavo guardando se stava piovendo anche qua, come a Porto Torres. Quindi sta diluviando lì a Porto Torres, Mario. Comunque ti ascolto ancora, il segnale è un po' leggermente oscillante, sicuramente l'antenna si sta muovendo, cambia appena, dai. Comunque riesco a tirarti fuori ancora. Oh ragazzi, dal vento mi sta tirando l'antenna a testa in giù. Mi senti, Eugenio? Sì che ti sento, ciao. Sì, ciao Franco, la Sassi. No, dice che gli sta per andare via Mario perché deve andare a casa per chiudersi, ma che tapparella che ha lasciato aperta, Sì, ma lo sento. qua sta prendendo un po' di nuovo, c'è un vento allucinante, la lanterna piegata a 90 gradi, forse per quello, boh, sta prendendo giù il mondo. Speriamo bene, boh, vabbè, non per l'antenna, mi interessano le tende, che ho le tende, quelle in gomma, dai, che il vento mai me le porta via. Ehi, sei già in movimento? Capa, dai, io ti saluto perché magari ti perdo, o mi perdi tu. Ci sentiamo alle prossime, magari se non avessi più ascoltati, ritieni salutato, vai. Vediamo un po' se Gianni è rientrato. Capa, sono col mio. Avvisami però. Perché? Perché era un po' alto il volume che stavo parlando con Mario. Prima andavi bene, era un po' più pacata come radio, questa spara di brutto. Non ti sentivo un benazzino, Gianni. Non ci toccato nulla, sono con la mia adesso, Il barattolo l'ho mollato, sono con la mia. Che cosa parla di combattimento? Quello là era un melegatti, lì. Caspizzina. Gianni Rubioffetta c'ha la radio da combattimento. Pace e bene a tutti. Pace e bene a te. Buonasera. Ciao G. Ciao Mario, se mi stai ascoltando, stai rientrando a casa. Ciao Franco, ciao Gianni, ciao Natalino. E se ce ne sono altri, ciao anche a loro. Lanza. Come va? Bene Franco, e tu? Tutto bene? Sì, grazie a Dio, già stiamo bene, dai. Quando c'è la salute, il lavoro e tutto, già. Andiamo avanti. Quello è molto importante, soprattutto la salute. Senza la salute non si fa nemmeno il lavoro, per cui è meglio sacrificarsi e avere tanta salute. Non c'è problema. Sacrificarsi per il lavoro, non per la salute, ci mancherebbe, intendevo quello. Certo, ti mando avanti Gianni per la salute, Gianni. Buonasera Giulio, sì, anche qua ho visto che sta piovendo, quindi è sicuramente QRM atmosferico, dai. Che dire, vabbè, la radio è quella mia, solita, il microfono, gli su non ho fatto assolutamente nulla, per cui, questa radio a combattimento da andini scinda non so. Sempre ce l'hai avuta tu da combattimento. Allora Gianni, ti dico subito che la radio è più forte di quella che avevi poc'anzi nell'altro baracchino, però come segnale è identico, 9 più 9, 9 più 8, più o meno. Sì, l'altro è l'Uniden, gli ho messo a posto l'altoparlante che gracchiava, adesso ne avevo una di un vecchio Midland, gli ho messo a posto, adesso suona benissimo. No, adesso sono col mio, col Jupix, e con l'M95 dello ZG, dai, non è cambiato niente, è la mia solita configurazione, dai. Già, M95 sembra un'arma da combattimento. La sigla M95, scusa, Sembra la sigla di un mitra. Sì, la radio è bellissima, è forte, bella, chiara, potente, è apprezzabilissima Gianni, però il segnale è uguale all'altro, non c'è differenza. Vediamo un po' Porto Torres, chi ci è rimasto. Eugenio, ci sei? Oh, Mario, io non sento più nessuno, Giulio. E nemmeno io, Mario, ci sei? Si saranno spostati, dice doveva chiudere delle tapparelle Mario, non so, e quindi si sarà spostato. Sì, si è spostato sicuramente perché la baraita stava parlando, parlava benissimo qua. Dai, stava modulato da Tarino, ciao Claudio. Mario! Io qua che sto chiudendo ragazzi, che sto per correre, sento il vento, un casino. Un casino, vorrei che si guastasse l'apparato, boh. Anche qua sta piovendo, no? Non c'è problema, è interessante che non ci siano fulmini, quello che è interessante. Poi per la pioggia non le fa niente, perché lì da te cosa si sentono? Fulmini ci sono, i tuoni? Poi qua stanno facendo il filmondo, c'è anche il vento, c'è l'antenna piegatissima. Sono spaventato che non si è mai si spezzi. No, si spezza, putidini, che non si spezza. Interessante che non ci siano fulmini, poi per la pioggia non ti preoccupare. No, non le fa niente. Ciao Claudio. Ciao Giulio, ma la mia domanda è questa. Ciao Eugenio, a futidini non succede nulla, se ci sono fulmini già spengo anch'io. La mia domanda è questa Giulio. Ma secondo te due sono le cose. O la Juventus sta puntando alla Champions ed il campionato non è affutinuta, o non è squadra di cuocuomani. Ma qui ci sono anche le pedivelle però. Lui anche le pedivelle. Sì, ma anch'io ho pensato quello. Però non sono nemmeno convinto, nel senso che la Juve deve giocare sia in campionato che in Champions, ci mancherebbe altro. No, li ha portati in coso, in ritiro, li ha portati e li ha rintemprati tutti quanti. Adesso, ma se funziona così, allora che siano sempre in ritiro, così almeno si rinvigoriscono, perché i superiori del campionato facevano pena. Infatti non stavo guardando più nemmeno le partite, pensa un po'. La mia domanda è un'altra. C'è un perfetto, giusto a sentire di Volacchini all'Amigi, ma io non si intende mai di Schubert. Cosa? Gianni, c'è un perfetto, giusto a sentire di Volacchini agli amici, però non siete mai nessuno. Come mai? Come? Che l'ha detto? Già sente, Gianni, spiegaci questa storia, com'è? Infatti non l'ho compreso, cioè, cosa sei intendi? Ha giusto, c'è sempre a questione di Volacchini agli amici. Ma questi amici ce lo piacciono pure? No, è un amico, gli hanno regalato due, quest'uno e nell'altro è uno stalker, boh, una cosa del genere, roba, chissà di erani, boh, e mi ha detto di provarli, insomma, di quest'unità gli ho cambiato l'altoparlante e funziona, l'altro gli devo mettere a posto la monopolina del volume, e poi si ritratta meglio per lui, cosa ne so? Ah, dai, avevo capito diversamente. Ma l'antenna ne ha? Ciao Claudio. Ciao Claudio, buonasera. Ah, già, ne ha l'antenna questo ragazzo? Boh, non lo so, gli ho chiesto, mi ha detto qua, provali già e poi vediamo di attaccarli, insomma, ha detto, va bene, ma ancora, quindi se è antenna a disposizione non lo so più. Risaltami, Bello. Beh, speriamo di trovare un altro, dai. Avanti Mario, buonasera, Giulio da questa parte. Ok Mario, no, ti ascolto bene, ma ti ascoltavo anche poc'anzi. Prima che tu ti spostassi ti sentivo lo stesso, molto bene, non c'era problema. L'altro giorno che non riuscivo a sentirti, evidentemente c'era qualche problema all'antenna. Ma adesso ti sento, alla grande. Ti mando avanti i tuoi amici, vai tra. No, io adesso ce l'ho, sento che parla ma non lo capisco più. Si è spostato di zona, visto che credo che sia ancora in baramobile, datemi conferma, Mario. Mario, forse non ti ha ascoltato Franco, comunque ti ringrazio e salutoni anche da parte degli amici, ma tu già li senti, con man mano che rilancio già li senti, comunque a te forse non ti ha sentito Franco, le condizioni non è che sono delle migliori, però diciamo io ti ascolto molto bene, Santiago 7 in questo momento è la radio 5, non è forte, però è chiara, molto pulita, perché non c'è il QRM. Bene, Mario, alle prossime allora, se stai chiudendo, non c'è problema. Franco, l'avevi sentito a Mario? No, negativo, sentivo solo il QRM più alto mentre lui parlava, ma non capivo assolutamente niente. Buon tutto, alle prossime magari in migliori condizioni, dai. Avanti Gianni. Kappa, io prima lo sentivo, adesso proprio zero, proprio sento solo QRM, poi adesso sta piovendo, è salito un po' più di rumore, dai, comunque niente di che. Claudio, ci sei ancora? Sì, qua sta diluviando. Ciao Mario, ti sento forte e chiaro, quando eri nella postazione Balai arrivavi quasi 9, te l'ho detto, adesso sei 5 di nuovo, comunque ti sento la mia posizione. Fortunatamente mi permette ancora una volta di ricevere bene e sono contento, pensavo peggio. Ok, sì, ciao a tutti ragazzi, vi sento magnificamente, un po' più di QRM ma comunque arrivate tutti magnificamente bene. E a me che senti male, ma comunque già mi accontento lo stesso, non c'è problema. Oh, yeah. Sì, no, comunque per la cronaca Mario è arrivato a casa e dunque stava trasmettendo sempre dalla macchina ma dietro casa sua, per cui è per quello che non lo sentivi o Franco e anche a Gianni, questo è anche per Gianni. Ma c'è anche Natalino avanti. Dai, io sono in ascolto, che devo fare cosa qua? Vi ascolto comunque, non c'è problema, salutoni a tutti. Va bene, Natalino, d'accordo. Ciao Natalino, allora, sempre da parlare, sì, se andai di travaggi, da qua tu. Non ti affaticare, Natalino, che ormai è l'età per non affaticarti più. Oh, yeah, yeah. Va bene, dai. Non bruffe, aiuto, canta. Lui è entrato bulldozer. Bulldozer è entrato, che aspetta, mi farebbe molto piacere sentirlo, ma io non l'ho sentito. Avanti, chi è? Bulldozer, sei tu? Qualcuno è entrato, ma non l'ho sentito neanche io, chi fosse, non ho capito. Bulldozer, ogni tanto Massimo, ogni tanto muore, poi sorge. Ma il segnale è basso, non è il suo il solito segnale. Ciao Massi, buonasera. Ora dove sta parlando? Che non è Bulldozer, che lo sento basso basso io. Cosa? Avanti, chi è? Bulldozer, sei tu? Vai, non è Bulldozer, oggi la gente di Zenni. Questo è qualcuno, non so chi è, ma la voce non è l'uno. Vai, che questo qui è un segnale a Porto Torres. Avanti, Porto Torres, ancora, se in ascolto, se c'è qualcun altro, oltre a Mario. Ehi, vabbè, dai, se vuole entrare, entra, già siamo qua. Ciao Frank, non ti ho salutato, ciao anche Natalino, davanti a Genio, sono, ciao a tutti, buonasera. Già va bene, già va bene. Sì, sì, ma è comunque così come ti sto dicendo io, Giulio, Ha dato lezione di calcio, poi 4 su 4, prima del girone, già passata agli ottavi, capito? Quindi, cioè, sta giocando una Champions favolosa, veramente, molto, molto bella. Ieri ho visto la partita che erano le 5, ma caspita, poteva farne 5 o 6 di gol, ne ha fatto 4. Ma ha giocato veramente molto, molto bene. Il campionato è così, però se sta puntando alla Champions, ben venga, il campionato già l'ha fatto per anni, quindi vuol dire che hanno deciso così la società di puntare alla Champions. Hai visto invece a Ronaldo che già l'ha fatto l'Atalanta? Porca miseria, rada. Quello lì è... Ma tu non hai seguito tu quello che ha detto Gasperini, però la frecciatina che ha dato alla Juve, dice, anche quando eri con la Juve me li facevi, volendo intendere, chissà cosa hanno pensato la Juve a mandare via Ronaldo o a lasciarlo andare via, gente ignorante, vabbè, non ce la facevano con i sud, dai, non c'è niente da dire, il problema è quello, no, ce la faceva più con i sud, con lo stipendio che era troppo alto e la Juve non ce la faceva più, per cui allora hanno fatto di tutto per mandarlo via. Oltre al fatto che c'erano i compagni di squadra tipo Chiellini, Kulusevski, Danilo, Bonucci e tanti altri che erano gelosi di Ronaldo perché dicevano che loro giocavano per Ronaldo. Tu stai giocando per Ronaldo perché Ronaldo è uno che fa parte della squadra ed è quello che ti segna 35 gol all'anno, cosa che voi non siete capaci. Voi negli ultimi 3 anni non siete stati capaci di fare gli stessi gol che Ronaldo fa in un'annata solamente, figurate un poco, sono dei morti, dai, sono dei cadaveri. Quindi, ieri hanno giocato perché hanno giocato bene l'attacco, si sono lamentati con Allegri, scusa Paolo, il passaggio è un po' lungo, si sono lamentati con Allegri che Allegri faceva gioco difensivistico, allora loro si sono lamentati i giocatori negli spogliatoi e ieri hanno fatto una partita d'attacco, se fanno una partita d'attacco i gol li segni, se invece ti muovi in difesa prima o poi lo prendi il gol, ecco qual è il discorso. Avanti Franco. Sì, sì, come dici tu, era un contratto troppo oneroso per la Juve, hanno dovuto ripiegare col venderlo, dai. No, la partita l'ho vista, una bella partita, la verità. Non penso che sia un problema solo di lui che stia mirando solo alla Champions, perlomeno non credo, dai. Comunque, Mari ha stimoli diversi e non so cosa l'abbia detto poi, detto di spogliatoio l'allenatore, comunque il risultato si è visto, dai. Avanti Gianni. Vabbè, io non metto becco perché sono fuori dal contesto, quindi boh, quindi dai, niente, rilascio Claudio, dai. Claudio. Stiamo andando, sono andato a controllarmi fuori, a vedere se è tutto a posto, sta diluviando, manco il giardino si vede fra. Porca miseria, ma qua non lo so, qua ho aperto, è tutto bagnato, ma non ho visto tutta questa pioggia, dai. Poi chi è rimasto? Eugenio c'è ancora, voi rilanciatelo, se non mi sente. Eugenio! Mi sa che ha chiuso? Sì, perché sta arrivando la portatore, c'è questa pioggia, ci esce qualche temporale che sta salendo da lì. Ma sta piovendo molto molto forte qua. Vabbè, già non so che avrei intubato, ancora, c'è la biglia di luce. Avanti, roba fredda. Eia, eia, sì, anche qua già ne sta mandando, dai. Quindi, l'MLM, ci prendiamo quest'acqua, questo boh, a quanto pare dovrebbe durare per diversi giorni, speriamo che non faccia nessun danno, dai. Sì, speriamo di no, perché voi siete in città, è diverso, stanno in campagna, può sempre succedere qualcosa di peggio. Vabbè, speriamo di no, speriamo che vada tutto bene. E l'altro chi era? Natali vuoi riprendere? Natali non ha faticato, non riprende, ha detto che dovevo fare cosa, dunque, infatti l'ho detto di non stancarsi troppo. Così è che fa, la bandava, la Juve quest'anno in campionato la squadra di Garaveri, già puzzolenti, già in putrefazione, per cui accontentiamoci di quello che fanno, speriamo che si svegliano perché fino a questo momento non ci hanno preso ancora il caffè la mattina e dunque sono addormentati, si dovrebbero svegliare. Avanti fra. Sì, sì, no, qui ho aperto, no, sì, sta piovigginando appena appena, ma niente di che. Oh, volevo chiedere a Giulio, sai, questo Mario di Porto Torres, se c'è da poco, diciamo, in frequenza, e se c'è anche la stazione fissa? Allora, lui è un vecchissimo CB, esattamente dal 1974, mi sembra che mi aveva detto, sì, 74, però non viveva a Porto Torres, è di Porto Torres, però era a Bologna, dunque adesso è rientrato qua e non so se deve, se continua a rimanere qua o se ritorna a Bologna, questo non te lo so dire. Per quanto riguarda la stazione, fissa ce l'aveva l'altro giorno, però aveva problemi di TV. Dunque aveva un'antenna, un Grand Prix, tre elementi mi sembra, una cosa del genere. Poi di più non so cosa dirci, lui l'ha detto, io l'ho ripetuto. Mi è considerato che lui l'ha detto in frequenza, io l'ho potuto anche ripetere senza nessuna remora. Ok, tu Claudio ne sai qualcosa di più? Claudio sta guardando la graticola, è il Bicetti, tanto per cambiare. Vai Lubrofetta. Eia, no, ritornando all'amico che c'era basso, non mi sembrava Massimone, dai, Massimiliano, già è un giorno che non si fa sentire, però, andava, dai, magari sta puntellando le finestre Claudio, dai, oi, vabbè, avanti ce l'ha tutto, che c'ho unide, è venuto a rendere edu, adesso almeno si sente bene. Funzionicchia l'acido, chissà che problema va, però adesso di smantellare non ha giugana, quindi se ne parla domani, dai. Ehi, sarà da cambiare il potenziometro, basta. Che cazzo ho detto, vicino, la fa zero. Mia, fa un po', mio. Oh Gianni, io non voglio essere malizioso, però stai attento perché ti dai i baracchini così in prova. Vabbè, non ti dico altro, già sei grande, già mi capisci cosa intendo, non si sa mai. Ossia, beh, vabbè, boh, lasciamo perdere. Avanti Gianni. No. Neanche da prendere in considerazione, ho intuito a cosa ti riferivi, è tutto assolutamente chiaro, limpido, recoaro, non ho bisogno problemi. Ciao Alessio, buonasera. Ciao Gianni, saluto di presenza anche a te. Allora, pare che sono vecchi, per carità. Oh, Popo, e beh, crescendo stai, perché da un po' di tempo che non ti ascolto. Poi, crescendo, c'è un'acqua qui, non mi fa credere, ma con le piante. Poco fa ho visto un paio di fulmini, ho visto dalla parte di Zusso, poi sono spariti, però ho visto che da Rada, dove c'è il meteo, ci sono due o tre fulmini lì, un po' più giù di Porto Torres, qui si sta spostando verso la Corsica. Vabbè, quando comincia a vedersi da lontano a Porto Torres, il tempo si sta prima o poi, arriva anche a Sassari, non ci sono dubbi. questo è l'ingresso, questo è l'ingresso, perché segue il coso, la linea della nave segue il volare, capito? È per quello. Vabbè dai, avanti fra. Speriamo che scarichi in mare, dai. Già danno già non ne fa, speriamo, comunque qualche imbarcazione. No, per farne troppa così abbondante, tipo l'altro giorno Alghero, meglio o niente o meglio poca, dai. Vabbè, ma oggi il meteo comunque già l'aveva preannunciato, anzi addirittura la protezione civile aveva preannunciato di stare allerta, ma non tanto a Sassari, vabbè, Piugge sì, ma comunque al centro della Sardegna ci saranno sicuramente dei furti temporali, quello è scontato, e durano anche per tutta la notte, non ci sono dubbi. Va bene, dai, comunque, speriamo che non succeda niente di grave, che non esonde nessun fiume, eccetera, eccetera. Avanti, Gianni. Ehi, Bianco per me 2 minuti e poi vi raggiungo, ok? Capo, vediamo se è rientrato Claudio. Claudio, è bella, gravina, casa, Ehi, Claudio, con una mano sta tenendo l'antenna, con l'altra non arriva al microfono, deve essere. Perché lui ci doveva piazzare l'antenna vicino alla graticola, così almeno non poteva fare 2 cose contemporaneamente, cucinare la carne e trasmettere. Sì, e poi la graticola è un ottimo piano di massa. Appunto, le serviva anche per quello, come ottimo piano di massa. Forse non ci ha pensato però, magari ci ripenserà più in là. vabbè, dai. Mi sa che siamo rimasti soli, io e tu. E Gianni rientrerà, vabbè. No, c'è anche Alessio, è entrato Alessio. Poi poco fa sentivo qualche piccola portante, ma non lo so. Poco fa più che il bulldozer mi sembrava un muletto, un camioncino. Uno di questi giorni, quando c'è temporale, sai cosa faccio? Gli aggancio il piede alla graticola, mi metto le 5-6 bistecche, aspetto che scenda il fulmine, così almeno risparmio fatica ad accendere il caminetto. Ma se gli attacchi un paio di kilowatt di potenza alla graticola, vedrai che già la scada lo stesso. Poi quando già me ne scendo in garage, io aspetto che scarichi. Già lo sai che io fulmine mi piacciono molto, i caminetti mi piacciono perché il calore li attira, come anche questa storia qua succede anche per i traghetti, per le fumaiole, capito? Io qua sono tranquillo, dovrei essere tranquillo perché c'è la chiesa del Sacro Cuore che mi protegge in tutti i sensi, c'è un campanile alto col parafulmine, dovrebbe scaricare lì, cosa ne pensi giù? Beh, in linea teorica dovrebbe essere così, anche io qui, la chiesa c'è vicino dove sono io, però devo dire che la chiesa, cioè il parafulmine della chiesa probabilmente o non funzionava o perlomeno non era più così efficiente, perché quando 2 anni fa, a 200 metri di nell'area da dove abito io, è sceso un fulmine e ha bruciato mezzo di punti, parlando di elettrodomestici e cose varie, per cui no, non c'è da meravigliarsi, quando arriva il fulmine maledetto, altro che parafulmine fra, uia! Sì, vabbè, io ce l'ho più vicino, tu sei un pochettino più lontano magari dalla chiesa di punti, io ce l'ho proprio attaccato, anzi qualche giorno chiedo se mi fa mettere l'antenna sopra. Io in linea d'aria alla chiesa quando sarà? Saranno 200 metri, no? Non di più o meno così. Stavo pensando, quasi mi compro 2 matasse di filo, lungo e li collego, faccio con i paridotti, no? con i PL e faccio la prolunga e lo metto anch'io sul campanile, vediamo un po' cosa succede. Ma non ti credere che sia molto più in alto di dove sono io, il campanile. Siamo di più o meno lì. Casomai mi conviene mettere a Monteoro, visto e considerato che vedo i ripetitori di Monteoro, li vedo alla grande, solo che lì ce ne vuole qualche chilometro di cavo. Sì, no, troppa perdita c'è. No, io ce l'ho vicino qua. Penso, boom, via d'aria. Non faccio 100 metri, non ci sono, ma è che rispetto a me è molto alto, io sono in terra, il campanile sarà 30-40 metri di altezza, penso. Beh, suppongo di sì, il campanile sarà al minimo sarà 30 metri, già lo credo. E certo che sì. E vabbè, dai, comunque. E accontentiamoci dell'altezza che abbiamo, che possiamo usare, dai. Io uso 7 metri davanti, la casa è alta 7 metri dalla parte davanti, al tetto, dalla parte dietro 10,50 metri, per cui ci sono 3 metri e mezzo di differenza da davanti a dietro. E poi dietro c'era il palo di 6 metri lungo, prima è più la mantova turbo, invece adesso sono un po' handicappato perché sono in basso, tra virgolette. Ma come si chiama? La Game Master, sì, fa qualche metro in più, non gli fa male, però non subisce molto l'altezza, le conseguenze dell'altezza alla terra. No, sempre 5 metri deve essere almeno distante, minimo 5 metri da ogni piano, sia dal piano riflettente, dal piano orizzontale, dappertutto. Per cui, mentre invece io, perché ho dalla 2,50 meno 90 di avanzare e siamo già a 1,40 metri più o meno, sicché a livello di dal tetto sono 1,40 metri, non di più. Perciò quello, siccome essendo un dipolo ha necessità di stare un pochino più in alto, almeno 5 metri da ogni ostacolo, vai? Sì, però stavo leggendo, a cospetto di una mantova, che c'è un piano di mantova con radiali, che ha bisogno di almeno 5-6 metri dal tetto, questa non viene influenzata più di tanto, a livello stazionario, rende bene ugualmente. Guarda come ho la mia è, vabbè, 3 metri da terra, attaccata a un fil di ferro per stendere, come si chiama, un paletto per stendere, è attaccata a un palmo dalla facciata, arriva la punta sotto il cornicione del tetto, là. Eppure va bene, non ha stazionare, non ha nulla, buh. Sì, quello lo puoi mettere anche piantata con 50 cm di palo attaccata per terra, e stazionaria non ne ha, questo sì è vero, però per essere proprio al massimo della radiofrequenza ci vuole almeno 5 metri dal tetto, questo è quello che si dice, perlomeno quello che dico, poi se corrisponde a verità non te lo so dire, però diciamo che anch'io suppongo che sia così, perché essendo un dipolo, il dipolo soffre la parte bassa, il dipolo di solito deve essere molto più in alto, ma molto più in alto del tetto, per rendere al massimo qualsiasi tipo di dipolo per qualsiasi frequenza. Più che altro a me mi manca l'aria intorno, dai, purtroppo è secca. Sicuramente sul tetto comincia. Cambierei da giorno alla notte, sicuramente. Beh, io non è che sono proprio così male, perché in tutto sommato attorno a me palazzi più alti non ce ne sono, perché il livello di costruzione in questa borgata è così. Di più in alto non puoi salire assolutamente, per cui non ci sono ostacoli, ed è quello appunto da considerare quando soffia vento, dice ma vento lì non ne tocca, qui il vento tocca, e come, è molto forte anche, perché tutto attorno non c'è riparo nella maniera più assoluta, perché le case hanno tutte la stessa altezza, cioè la massima altezza è quella, per cui non si può dire che il vento non ci sia, altro che se c'è, tanto è vero che io dal tetto vedo il mare tranquillamente, vedo anche la barca, cioè quando c'è la barca il mare la vedo, no? Quando la giornata è chiara, bella, luminosa soprattutto, vedo anche le barche in mare, per cui no, il vento arriva diretto, ofra. No, caspita, c'è una buona posizione tu, abbastanza buona, dai. Ma vedi il mare sul terrazzo oppure l'antenna vede il mare? Lo vedi tu proprio? Quando io salgo sul tetto, perché metto i piedi sul tetto, vedo il mare tranquillamente, non c'è problema. Poi l'antenna naturalmente ha tutta la sua altezza, è ovvio, no? Però, ripeto, se dovessi metterla dall'altra parte della casa, dove c'era prima la mantova a tubo, sicuramente un piccolo vantaggio ce l'avrò. sia in ricezione che in trasmissione, non ci sono dubbi, perché diventerebbero in altezza intanto 3,5 metri solo dalla piovenza del tetto, da una parte all'altra, primo, più i 6 metri di palo che posso mettere lì dalla parte di dietro, mentre dalla parte davanti io non lo metterò mai un palo così lungo, ci mancherebbe altro. Ecco qual è la differenza, Franco. Dunque, tutto sommato, facendo bene i calcoli tra palo e l'altezza della casa, io penso che guadagnerei all'incirca 8-9 metri di altezza rispetto da dove adesso. Adesso è rientrato più bello e più forte di prima, ragazzi. Ben rientrato. Sì, poi mi direi se c'hai ancora la predisposizione per l'antenna lì. O staffe e cose varie, dai. Avanti, oggi è ancora piovendo, sa? Sì, non facendo il mondo. Non facendo il mondo. Adesso il corrente è sparito. Mi è sparito. Però non sta continuando a scendere il mondo. Rieccomi. Ehi, riprenditela, Gianni. Bene, sì, adesso io ti sento molto meglio rispetto a prima. Sicuramente disturbi atmosferici, dai. E rumori vari, molesti. Noi, avanti, Fra. Parlando anche di posizione, anche Gianni c'ha un'ottima posizione. Avanti, giù. Sì, Fra, rispondendo a te, ciao Eugenio, ben rientrato. E anche ciao Gianni, ben rientrato anche a te. Rispondendo a quello che mi hai chiesto, Franco, sì, da quella parte là da considerare che c'è un tubo master da 2 pollici fisso, e dentro quel tubo io ci infilo tutti gli altri, cioè partendo dal tetto posso mettere 6 metri di tubo come ce l'avevo una volta, poi se ne voglio mettere 10 metri ne metto 10 metri, però quello c'è un tubo master da 2 pollici e poi lì dentro ci metto il tubo a cannocchiale autocostruito come avevo fatto prima, che ce l'ho sempre, e lì di volta in volta a lungo di 2 metri circa, ecco, perché ogni elemento è di 2 metri del tubo autocostruito. Ecco come opera, per cui è sempre pronto con i bulloni e in acciaio inossidabile, dunque li svizzi tranquillamente, non ci avviciniscono, eccetera eccetera, tranquilli. E quello è l'ideale, bene, avere la predisposizione è l'ideale, anche se ci fosse, vedi, anche qui sopra il tetto un tubo già pronto da inserirci un bel paletto qui sul culmine del tetto, sarebbe stata una cosa fantastica, ma mi sa che rimarrà fantascienza. Avanti, Eugenio. Allora, io ho anche un tubo a cerniera, mi spiego. Il primo tubo che va infilato dentro il tubo master è addirittura la cerniera a 50 cm che può rimanere dentro il tubo master. Poi c'è una cerniera che, se voglio, io il palo lo metto con tutta l'antenna in orizzontale e non tocca per terra nella maniera più assoluta, perché è stato inizialmente predisposto quel sistema lì, poi però avevo cambiato e allora avevo eliminato